La Commissione europea per ora non risponde a British Airways e Ryanair. I vertici delle compagnie si rivolgono proprio a Bruxelles chiedendo di bloccare il prestito ponte concesso dal governo ad Alitalia. Un aiuto di Stato oltraggioso, attaccano senza troppi giri di parole. Niente affatto, replica il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Un conto è l'aiuto di Stato a freddo. Un conto è l'aiuto di Stato fatto per favorire le privatizzazioni. Dal consiglio di amministrazione di Alitalia arriva intanto la nomina di Intesa San Paolo come advisor. Sarà la prima banca italiana a tentare l'impresa, a cercare insomma un'offerta in grado di salvare la barca che affonda. La politica si muove di fianco. Domani arriverà alla Camera un super provvedimento che accorpa il prestito ponte da 300 milioni di euro al decreto fiscale varato a fine maggio. Decreto che ha permesso la nomina dell'advisor e la trasformazione del prestito in patrimonio per coprire le perdite. Paola Nanini, GR24 e sulle 24 ore.